sense of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Chain Melody, la canzone di Ghost. Gli americani si stanno svegliando e la sentono risuonare da tutti i loro teleschermi, da tutti i notiziari che guardano mentre fanno colazione, perché se n'è andato, è morto a 57 anni, Patrick Swayze, che oltre a essere un eccellente, particolare, originale attore, era anche una brava persona, un texano di buona famiglia. Pensate che sua madre era la direttrice del balletto di Houston, un uomo che è rimasto sposato, contrariamente al costume di Hollywood, per 30 anni con la sua consorte Lisa, che ha dato la notizia ai giornali, e naturalmente sono partite le rievocazioni, e appunto le televisioni, anche le nostre, ormai stanno diffondendo la triste notizia. Era appena finita la programmazione in America della prima serie di questo The Beast, l'ultimo prodotto televisivo realizzato da Patrick Swayze, quando già aveva saputo di essere ammalato. Faceva la parte di un agente segreto della FBI, un infiltrato della FBI. Era stato accolto anche con un discreto successo. Lui aveva interpretato il serial con molta grinta, con quella fisicità che è un po' la sua caratteristica, è stata la caratteristica di tutti i suoi grandi successi. Secondo me, per esempio, Patrick Swayze è l'attore di Hollywood, almeno per quanto mi ricordo. Ci metterei John Wayne da quelle parti, ma l'attore di Hollywood che stava seduto meglio di qualsiasi altro. Quando Patrick Swayze si sedeva su una sedia, era proprio seduto, non so come dire, era largo, imponente e anche rassicurante. Ora, ricordare un film dei suoi che ci è molto piaciuto, prima poi dei grandi successi come Ghost, naturalmente Dirty Dancing e quelli che hanno sancito un po' la sua celebrità, ed è invece un film di un Patrick Swayze assolutamente ragazzino, con in un mucchio di ragazzini che avrebbero avuto un futuro eccellente: Matt Dillon, Rob Lowe, Ralph Macchio, Emilio Estevez e niente meno che Tom Cruise. E per l'appunto Patrick Swayze, erano i ragazzi della 56esima strada, no? Quelli che uno che come dire, la sa lunga e vede lontano, come Francis Ford Coppola aveva allestito per questo grande affresco della gioventù americana, una gioventù che poi attraverso gli anni 80, di cui Patrick Swayze era stato protagonista, e poi man mano si era un po' classicizzata in quell'immagine così nitida e innocente, per poi mutarsi e cambiare anche la propria natura. E con Patrick Swayze, per l'appunto, se ne va uno degli interpreti di questa tipica classicità americana. Burst into the Hollywood fast lane with Dirty Dancing. Eccoli qua i telegiornali, i notiziari. Questa è CBS che sta battendo la notizia. Naturalmente è l'ora questa dei talk show americani, quindi niente di meglio. Adesso anche abbiamo Fox e CNN accesi, niente di meglio che chiamare qualcuno che l'abbia conosciuto e sentire che cosa ricorda di Patrick e dei suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo. Però c'è anche un'altra notizia che è altamente in circolo in questa mattinata americana, al di là naturalmente del mondo politico di cui ci occuperemo tra poco. Sunday was supposed to be Annie Lee's wedding day. Instead, it was the day investigators found what they believed to be the body of the Yale graduate student. Questa è la notizia per come la dà, in modo come sempre molto sobrio, l'Associated Press. In realtà è un delitto efferato quello che si è consumato niente meno che dentro le sacre stanze della Università di Yale, uno dei luoghi deputati della cultura americana. E stranamente questo delitto, che per la morte di Annie Lee, una giovane studentessa di origini vietnamita, scomparsa una settimana fa e trovata addirittura murata dentro un'aula della università di Yale. Ricorda proprio, no, quei B-movie di nuovo tipici degli anni 80-90, no? quei gialli un po' horror ambientati proprio all'interno dei college, della vita universitaria americana, dove il mostro, lo sconosciuto, minaccia sempre l'innocenza dei giovani nel loro momento magico. Qui poi siamo nella Ivy League, no? Le grandi università che creano la classe dirigente. Comunque la polizia del Connecticut ora sarebbe vicino a identificare il responsabile della morte di Annie Lee. La polizia ha trovato alcuni indumenti insanguinati che collegherebbero l'uomo sospetto all'uccisione della ragazza. La persona al centro di indagine avrebbe ferite su tutto il corpo che potrebbero essere state inferte proprio da Annie mentre cercava di difendersi, e durante un interrogatorio avrebbe anche fallito il test di rivelatore di bugie, la cosiddetta macchina della verità, e di conseguenza si aspettano a ore delle novità su questo giallo, così giallo veloce, bruciante, con tempi instant tipicamente ventunesimo secolo, che sta appassionando l'America. Primo piano. It is wonderful to be back in New York after having just been here last week. It is a beautiful day and la prende alla larga, dice che il tempo è bello ed è magnifico essere tornato a New York, ma Barack Obama ieri è andato a New York a fare un discorso tutt'altro che tenero, no? È sembrato davvero un po' un derby Washington-New York. Washington naturalmente intesa nella versione riveduta e corretta di cui Barack Obama si propone come l'interprete, e New York invece intesa in questo caso come la città di Wall Street, ovvero del mondo degli affarismi leciti, illeciti, e poi di tutta quella zona grigia di mezzo che non vuole mollare la propria presa, no? La propria presa su che cosa? Fondamentalmente sul portafoglio degli americani. Beh, c'è stato anche un derby, tra l'altro, proprio domenica è cominciato il campionato di football professionistico NFL, c'è stato proprio Washington-New York. In quel caso New York ha vinto, anche se per il rotto della cuffia. Invece Obama ieri è andato piuttosto bene in trasferta a New York, e non è andato a fare il suo discorso dentro Wall Street. Il suo staff si è affrettato a dire che, per carità, non c'era niente di simbolico nel fatto che non ci abbia neanche messo piede il presidente dentro la borsa, ma noi siamo tentati a credere invece che di simboli ce n'erano fin troppi. Nella intervista che ha rilasciato subito dopo il discorso, il presidente ha ribadito la necessità di una riforma delle regole per evitare che una crisi come quella attuale si verifichi nuovamente. Questo è il senso della lunga comunicazione che ha fatto. Ha constatato un inizio della normalizzazione dei mercati, ma ha ribadito di credere fermamente nel libero mercato e che non c'è interesse da parte del governo a mantenere un coinvolgimento così ampio nei mercati, e che peraltro non se ne parla di far partire un secondo aiuto come quello del febbraio scorso. In merito alla riforma proposta dalla sua amministrazione, ha sottolineato l'esigenza di cooperazione con Wall Street, ha ricordato che fra le novità della riforma figurano maggiori requisiti di capitale, come gli chiede il suo specialista Timothy Geithner. Ha detto che il collasso di Lehman Brothers ha cambiato il volto di Wall Street, facendo sprofondare il paese nella peggiore crisi degli ultimi anni, dagli anni 30, una tempesta non solo finanziaria ma economica, con i prezzi delle case a piccole, imprese impossibilitate ad avere accesso al credito, 700.000 posti di lavoro persi ogni mese. È stato un fallimento collettivo, ha detto ancora Obama, una mancanza di responsabilità a Washington, a Wall Street e in tutta America. Non bisogna ricascarci, bisogna stare in guardia contro i rischi sistemici a cui abbiamo assistito. Per questo motivo necessaria una revisione del sistema finanziario, la revisione più ambiziosa dalla Grande Depressione. Insomma, non molla la presa Barack Obama, che si è dichiarato veramente molto propenso a non adottare un secondo piano di rilancio anticrisi negli Stati Uniti d'America. Tra l'altro, dietro l'angolo c'è un G20 settimana prossima a Pittsburgh in Pennsylvania, questi argomenti prenderanno un piglio internazionale. Altre cose ha fatto Barack Obama, ma ne parliamo tra pochissimo. Buongiorno America. Ve li ricordate questi rumorini? Li abbiamo trasmessi, ritrasmessi, li abbiamo anche così analizzati al microscopio, per quanto si possa fare radiofonicamente. Sono una storia di, sembra una vita fa, in realtà non è una vita fa, sono 9 mesi o poco più il giorno in cui Muntadhar al-Zaidi, giornalista iracheno, divenne un eroe nel mondo arabo, ma non solo, per aver lanciato le sue scarpe contro l'ex presidente americano George W. Bush a una conferenza stampa. La notizia che i giornali americani rilanciano in modo che definirei un po' imbarazzato, perché va sottoposta a diverse letture, è che Muntadhar al-Zaidi sta uscendo di prigione con un giorno di ritardo, 9 mesi di prigionia scontati. Tra l'altro la pena è stata accorciata in base alla buona condotta, a base del fatto che questo giornalista era completamente incensurato. Insomma, si è conclusa la sua espiazione per quel gesto, che ebbe una visibilità straordinaria in tutto il mondo e venne anche peraltro imitato poco più tardi contro potenti di altre nazioni. A un certo punto si pensò anche a una possibile epidemia di scarpate, poi per fortuna la tentazione, il malanno così si è inaridito con l'arrivo dell'estate. Fa effetto vedere come reagiscono i media americani a questa notizia, un po' perché quando arrivarono le scarpate a Bush si era in un momento di totale impopolarità dell'ex presidente, il 43esimo presidente statunitense, e in parecchi risero sotto i baffi. Mi ricordo articoli pubblicati, non so, da un sito come Huffington Post, il cuore del radicalismo americano, radicalismo chic americano, che in un certo senso elesse a sua volta a paladino questo giornalista, così dai modi perlomeno poco urbani, tanto per dirne una, anche un po' peggio, perché Zaidi nell'occasione apostrofò Bush come cane. La condanna che gli era stata comminata inizialmente era di 3 anni di reclusione, poi sono arrivate tutte le riduzioni. La frase pronunciata a Muntadhar, anzi per esattezza, era: questo è un bacio da Dio dal popolo iracheno, cane, questo è dalle vedove, dagli orfani e da coloro che sono stati uccisi in Iraq. Bush nell'occasione si dimostrò molto sportivo, nel senso più atletico del termine, nel senso riuscì a dribblare, no? A schivare le due scarpate, poi riprese tranquillamente il suo discorso. Tranquillamente è un eufemismo, naturalmente. Il fratello di Muntadhar al-Zaidi, che si chiama Uday, l'intera famiglia si sono fatti trovare in attesa davanti alla base base militare di Mutanna, nel quartiere Kark, ovest di Baghdad, dove Muntadhar ha scontato le ultime ore di detenzione. Sono previsti grandi festeggiamenti, ma la notazione da fare a margine della notizia è che il mondo è cambiato rapidamente e una scarpata, che ne so, se mai dovesse arrivare, gli auguriamo di no, a Barack Obama, credo avrebbe un inquadramento mediatico ben diverso. Evidentemente l'approccio che il nuovo presidente degli Stati Uniti ha avuto con il mondo ha saputo ridisegnare certi equilibri, certe relazioni e forse anche certe reazioni emotive. Please welcome Kanye West. Let me say thank you for honoring this commitment. A lot of times people, things happen, they kind of back out the last minute, or they have a publicist or someone call and say, oh, allora qui siamo allo show di Jay Leno ed è arrivato Kanye West. Ascoltiamo ancora un momento. Tell us about your day. Have you had a tough day today? Yeah, it's been extremely difficult. I just dealing with the fact that I hurt someone or took anything away. Questo è Kanye West che si scusa, riassunto delle puntate della unica puntata precedente. La sera prima all'MTV Awards, Kanye West sale sul palco dove è in corso la premiazione della vincitrice del premio per il miglior video femminile, prende, si impossessa il microfono e grida che secondo lui andava invece premiata un'altra cantante, nella fattispecie la sua amica Beyoncé. Tutta l'America, come dire, sussulta, anche quella dei VIP, perché dice che è stato molto rude, molto maleducato, molto impolite, molto poco educato nel suo comportamento. E lui si scusa inizialmente, poi sul suo blog. Adesso tra poco ascolteremo anche come risponde alle domande di Jay Leno, Kanye West, che decide per l'appunto di tornare in televisione, farsi vedere dagli americani in quello che in quel momento è certamente la ribalta più interessante d'America, dell'America televisiva. Perché? Perché Jay Leno, il conduttore televisivo più popolare insieme a David Letterman degli talk show della sera, quelli un po' sofisticati, quelli che si occupano anche di politica, quelli che si occupano di celebrities, quelli che hanno il coraggio di prendere in giro i presidenti, Jay Leno ha inaugurato un suo nuovo show, e questo è un grosso evento per l'America televisiva, anche perché dopo aver chiuso il suo Tonight Show ha aperto questo Jay Leno Show, che va in onda 5 volte alla settimana in un orario di punta e con ospiti eccezionali. Lui ha preso in giro anche i media dicendo che nella prima puntata ci sarebbe stato ospite Barack Obama. Non c'era Obama, ma c'era Kanye West, reduce da questo incidente diplomatico piuttosto terribile. E a un certo punto Jay Leno, affondando il coltello proprio nella torta, no, che aveva a disposizione, ha fatto a Kanye West una domanda terribile, cioè gli ha chiesto: tua mamma che è morta poco tempo fa, tua mamma che tu hai tanto amato e tanto celebrato nelle tue canzoni, come avrebbe reagito a un tuo comportamento di questo genere? My dream of what award shows were supposed to be called, è stato un vero e proprio colpo di teatro, perché a quel punto Kanye West, che è in questo momento forse il rapper e uno degli artisti, dei musicisti più amati d'America, ha provato, come sentite, a biascicare qualcosa, a trovare qualche giustificazione. Jay Leno, consumato intrattenitore, anche come dire crudele intrattenitore, gli ha dato anche una pacca sulle ginocchia, come dire: su ragazzo, tirati su. E a quel punto Kanye West è piombato nel pianto liberatorio, no? E tutta l'America, come dire, ha elaborato la questione e lo ha perdonato, per cui il suo gesto, giudicato inaccettabile solo poche ore prima, adesso fa parte della storia dei media americani. Noi vogliamo concludere la puntata di oggi facendovi sentire una cosa che Tiziano, un nostro frequentatore della pagina Facebook, ci ha mandato e che ci è piaciuta un sacco. La nostra sigla sarà più cool, ma anche questa mica male, eh? Buongiorno America, sarà un'altra giornata stratosferica, il sole nel cielo sorride perché prende omaggio alla razza americana che in me. Com'è la storia della razza americana che è in me? Una traduzione impropria ma molto stimolante della sigla di American Dad. Grazie a Tiziano che ce l'ha segnalata, ve la riproporremo a ogni piede sospinto. Tante cose restano in circolo e torneranno qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione Antonella Migliacci, in regia Valerio Rocchetti a Roma e Fabio Cantadori a Milano. La mail è buongiornoamerica@radio24.it. Funziona la pagina Facebook col vecchio indirizzo che non riusciamo a cambiare e quindi è redazione Jefferson 3 con 3 scritto in numero. Andiamo in replica alle 10, torniamo dopo l'una e mezza domani qui su Radio 24. State tutti bene.